Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. 2 anni fa, come dimenticarsi quella diretta, si registrava il più grande fallimento nella storia americana. Come alcuni giornali già riportano oggi, chiaramente stiamo parlando di Lehman Brothers, 613 miliardi di dollari, insomma stiamo parlando di qualcosa come 50 anni di manovre finanziarie in Italia. Tanto ha pesato il crack di Lehman Brothers e soprattutto il panico in cui gettò i mercati allora, i crolli del 7-8% negli indici e il timore che il sistema, perlomeno che si potesse conoscere una crisi sistemica, le banche che non si prestavano più soldi, insomma il disastro causato all'interno di un disastro più complessivo dovuto all'esplosione dei mutui subprime e quindi tutti gli strumenti a loro legati, a partire da tutti gli strumenti a leva, futures, i credit default swaps, quindi le polizze assicurative in caso di crack, tutto diventò carta senza valore. Ma già si veniva infatti da settimane pesantissime. A metà settembre il governo Bush decide di non aiutare Lehman Brothers, la lascia in una logica anche di mercato, ha detto lasciamo che il mercato faccia il suo corso. Si è capito allora, purtroppo anche sulle spalle dei migliaia di dipendenti di Lehman Brothers, si è capito allora, dicevo, che così non era possibile fare, nel senso che la crisi e l'incertezza, l'insicurezza che questa cosa generò a livello sistemico obbligò poi il governo americano 2 giorni dopo a lanciare sostanzialmente, 4 giorni dopo, il piano TARP, ossia 700 miliardi di dollari a disposizione con cui il governo garantiva che avrebbe comprato tutti gli asset tossici, tutti i prodotti tossici che le banche non riuscivano più a collocare, non avevano più prezzo, valevano zero, la carta su cui erano scritti, e il governo promise che li avrebbe comprati lui, 700 miliardi, poi se ne aggiunsero altri 700, siamo ormai a 2.000 miliardi almeno di dollari sul costo della crisi, parte dei quali ridati dalle banche, ma insomma ci fu la prima grande mastodontica operazione di salvataggio del sistema bancario americano, quella che poi ha portato l'America ad imbarcare deficit su deficit, adesso viaggia intorno al 14% di deficit, ma si capì che era meglio imbarcare il deficit e aumentare il deficit che non conoscere una crisi sistemica in cui le borse crollavano, le banche non si prestavano soldi e nessuno capiva più che valore dare a questi strumenti derivati. Di questo parleremo, perché dopo 2 anni qualcosa si è mosso, sicuramente gli stipendi dei manager che sono tornati a livelli molto alti dei manager bancari, ma è di oggi la notizia che l'Europa è intervenuta, per quello che riguarda chiaramente solo la parte europea, nel regolamentare le vendite allo scoperto, ossia quando si vende senza avere fisicamente il titolo in mano, e poi mentre ricordava altri strumenti presi oggi, c'è tutto un piano di stimolo che, secondo lo stesso ex governatore della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, Alan Greenspan, sta funzionando meno del previsto. Il gufo Greenspan continua, da quando non è più la Federal Reserve, a così vaticinare. Vorremmo sapere cosa ha fatto lui per evitare lo scoppio della più grande crisi finanziaria negli oltre 10 anni che è stata la Banca Centrale Americana. Vabbè, questa è l'apertura. Racconteremo anche alcune storie degli ex dipendenti Lehman. Solo a Londra ce n'erano 4.000, di cui quasi 500 italiani. Che cosa hanno fatto, che cosa fanno 2 anni dopo? Ancora, per quello che riguarda, vedo già dei messaggi, so che la polemica è anche, lo stesso ex numero uno di Lehman ha detto a noi ci hanno fatto fallire, poi hanno salvato Goldman Sachs perché era la banca da cui veniva l'allora ministro del tesoro americano Paulson, hanno salvato Merrill Lynch, hanno fatto comprare a Bank of America, insomma hanno salvato tutti tranne che noi. È vero che c'è stato un ennesimo errore dell'amministrazione Bush e che poi si è corso ai ripari. È innegabile che Lehman abbia pagato più di tutti, più di tanti altri e delle volte anche forse per tutti. Le borse oggi, meno 0,6% Milano, meno mezzo punto percentuale di calo Parigi, lo 0,2% Francoforte di calo e anche Londra, l'America guadagna lo 0,2%, bene solo Luxottica più 1,90% e Pregillo più 1,3% come Popolare di Milano, mezzo punto percentuale Mediaset e Fiat di rialzo, ma anche Bulgari, perde Ansaldo il 2% come A2A, Terna l'1,6%, Telecom perde l'1,4, Autogrill 1,3, Azimut pure e anche Steam Microelectronics. Euro sempre forte a quota 1,30 sul dollaro. 349 238 6666 per i vostri SMS e adesso rapidamente le notizie in breve. Record su record, quello dell'oro, ne abbiamo parlato per intere puntate, un 1274 dollari l'once, la dice lunga sulle incertezze che ancora pesano sull'economia. Il petrolio in calo a 75,2 dollari al barile, anche qui petrolio fermo vuol dire che nessuno va a scommettere con i contratti futures che il petrolio possa salire in un anno, in sei mesi, perché le incertezze sul tasso di ripresa sono molto molto forti. Il Giappone è intervenuto per frenare la forza dello yen. Lo yen in confronto del dollaro è arrivato praticamente a 80, adesso è 85,6, ma insomma è sceso a quota 83. Insomma, il biglietto verde era sceso contro lo yen a 82-86, adesso è un po' risalito, cioè si è un po' rafforzato il dollaro, 85 yen per un dollaro, ma insomma la situazione è difficile anche in Giappone. Il Giappone teme di non riuscire più a esportare nulla se c'è uno yen a 82-80 nei confronti del dollaro. Ancora l'indice manifatturiero misurato dalla Federal Reserve in America, dalla Federal Reserve di New York, è calato, è un indice molto importante, viene usato come riferimento, è calato più delle attese, a 4,1 punti contro i 7 punti di agosto, gli economisti si attendevano un rialzo a quota 8. Io non so come si possa attendersi un rialzo a quota 8 e poi avere un dato che scende a quota 4 da quota 7, cioè io capisco gli economisti, ma qua mi sembra un po'... ce li giochiamo fra un po' sti numeri. E poi la classifica delle città più care al mondo, già ve l'hanno raccontata i nostri GR in alcune edizioni. Oslo, anche nel 2010, la città più cara del mondo, seguita da Zurigo e Ginevra. Lo studio di UBS sui prezzi e salari, Roma è scesa dal 17° al 24° posto e Milano è scesa dal 30° al 37° posto. La verifica si fa sui prezzi e sui salari, per cui si va a vedere in base ai salari e un rapporto prezzi-salari dove è più caro vivere, chiaramente, altrimenti sarebbe Tokyo in termini assoluti probabilmente, però si va a vedere il raffronto con i salari. Oslo, Zurigo, Ginevra, Tokyo e Copenaghen, le 5 città più care al mondo. Le 5 più economiche: Kuala Lumpur, New Delhi, Bucarest, Manila e Mumbai. Le 5 dove si guadagna di più: Zurigo, Copenaghen, Ginevra, Oslo e New York, che però non è tra le più care perché i prezzi sono in rapporto più bassi. E le 5 dove si guadagna di meno sono New Delhi, Nairobi, Jakarta, Manila e Mumbai. Quindi 2 indiane su 5. E comunque quasi tutte tranne Nairobi concentrate in Asia. Il potere d'acquisto dov'è che è più alto, appunto il rapporto prezzo-salario? A Zurigo, a Sydney, a Miami, a Los Angeles e nel Lussemburgo. L'inflazione italiana, veniamo alle notizie dell'Italia, è rallentata all'1,6% ad agosto contro l'1,7% di luglio, meno caro anche il carrello della spesa misurato dall'indice dell'Istat. È calato dello 0,1% su mese e comunque all'1,6%. La benzina ha fatto meno 1% ad agosto, ma è aumentata del 6% rispetto a un anno fa, parliamo sempre di agosto, e anche il gasolio è del 9% più caro rispetto ad agosto. Oggi in prima pagina su Sole 24 Ore trovate tutta un'anticipazione sui numeri del federalismo fiscale, ce ne occuperemo nella seconda ora del programma, soprattutto la parte di manovra fiscale regionale, quindi i presidenti delle regioni potranno manovrare a loro piacimento l'addizionale IRPEF verso l'alto, verso il basso, nei limiti di un tetto che potrebbe passare al 3%. C'è anche una prima bozza sui costi standard della sanità, quanto deve costare il servizio, visto che l'essere umano è uguale dappertutto. 4 le regioni utilizzate come benchmark, come riferimento: Lombardia, Toscana, Marche e Umbria. E si dice, insomma, si fa la media di questo costo e si dice, se la sacca di plasma costa così in queste 4 regioni, deve costare così, o perlomeno dovete spiegare perché non costa così in tutte le altre regioni. Allora, per quello che riguarda le dichiarazioni di Emma Marcegaglia, adesso è arrivata una nota. Emma Marcegaglia oggi pomeriggio aveva detto che forse la maggioranza non c'era più, i conflitti personali non aiutano e è un momento di brutta politica, piena di dibattiti sugli appartamenti, sugli amanti, sui cognati. Non è questo che ci interessa, non è questo che serve per far ripartire l'economia. Una precisazione poco fa, la Presidente di Confindustria ha precisato, rispondendo alla domanda su che cosa sarebbe successo nel caso in cui non ci fosse più una maggioranza di governo, mi sono limitata semplicemente ad affermare che il governo deve comunque andare avanti. Il tavolo dei metalmeccanici, ce ne occuperemo più avanti, oggi l'incontro tra la Federmeccanica e i sindacati. Stiamo cercando di capire invece che cosa è successo al gruppo Finmeccanico, o meglio la controllata Leni Aeronautica, che avrebbe comunicato l'avvio della procedura di cassa integrazione in vista della chiusura del sito di Brindisi. E anche qui stiamo cercando di capire con Finmeccanica stessa, perché l'hanno comunicato i sindacalisti, la CISL, nel caso specifico la FIMCISL di Marco Bentivogli. E poi riparte la vendita di Tirrenia, le manifestazioni di interesse possono essere presentate entro il 29 settembre. Va bene, partiamo con il primo tema. 2 anni dopo Lehman, che cosa abbiamo imparato? Che cosa capitolo abbiamo raccontato? Che cosa fanno gli ex dipendenti della Lehman? 349-238-6666 per i vostri sms. BBC has learned that the world's fourth biggest investment bank, Lehman Brothers, is near to insolvency after the US Treasury decided taxpayers' money should not be spent to bail it out of trouble. That decision is believed to have prompted potential buyers, including Barclays Bank, to walk away from any rescue deal. Former employees in the city today remain shocked. The market's reeling following the collapse of investment bank Lehman Brothers. You wanted to comment about the collapse of Lehman Brothers? America's fourth largest investment bank has filed for insolvency, and around 5,000 staff in the UK, scores of whom left its Canary Wharf headquarters this morning, now fear the worst. We knew things were bad, but in a million years no one expected it to come to this. You know what? This is about these people here that gave everything to this firm, and unfortunately, you know, it's over. So, what can I tell you? I couldn't believe it could have happened. A company this size. I mean, look at the size of the building. You know, it's just like, it just could never happen. Quello che avete appena sentito sono i TG americani, come aprirono quella mattina di 2 anni fa, e le voci dei dipendenti della Lehman Brothers. Cos'era successo? Nell'arco di un anno e mezzo Lehman Brothers, che poi dichiarò il fallimento, travolta da oltre 613 miliardi di debiti, aveva visto scendere la sua capitalizzazione, i soldi in cassa, da 40 miliardi a 2 miliardi di dollari e decretò il più grande fallimento della storia americana. Poi ci fu Washington Mutual, 330 miliardi. E altri fallimenti erano stati quelli di Enron, ma Enron rispetto a Lehman, che Enron fece anche scandalo, valeva un decimo, 65 miliardi. C'era stato un tentativo di salvataggio. Già il 9 settembre le azioni di Lehman Brothers erano crollate in un giorno del 44%. Perché? Perché la notizia che la Korea Development Bank avrebbe potuto acquistare Lehman era stata smentita, era stata l'ultima speranza. Già nei primi sei mesi del 2008 le azioni della Lehman Brothers avevano perso il 73% del loro valore. Erano così crollate il 9 settembre a $7.80, ancora il 10 settembre perdono un altro 7%, Lehman annuncia una perdita di $4 miliardi, l'11 settembre perdono un altro 40%, a quel punto il salvataggio diventa difficilissimo. Tra il sabato e la domenica, 13 e 14 settembre, c'era, si pensava, un'offerta della Barclays e poi di Bank of America. Domenica 14 settembre Barclays dice, fa sapere che non è disponibile acquistare Lehman Brothers, apre la borsa il 15 settembre e ci siamo. E poco prima che apre la borsa, Lehman Brothers annuncia l'intenzione di avvalersi della protezione in caso di bancarotta. Le azioni a quel punto perdono l'80% del valore in una seduta. Professor Giulio Sapelli, docente di storia economica e analisi delle organizzazioni alla Statale di Milano, buonasera. Buonasera a lei, ascoltatori. Come dimenticarsi quel giorno? Però guardiamo anche al futuro. Abbiamo capito che Lehman ha pagato un errore madornale, lo possiamo dire, che Paulson e Bush fecero l'ultimo dei loro grandi errori, e cioè pensare che il mercato in qualche modo avrebbe assorbito quei 613 miliardi di crack? Sì, questo non c'è dubbio, avevano probabilmente in mente ancora questo sistema dell'autoregolazione, anche se non bisogna escludere poi il meccanismo di lobby, perché Paulson dopo salva delle importanti unità finanziarie, insomma, in fondo Lehman Brothers bisognerebbe, non abbiamo tempo di parlarne, ma era un personaggio molto scomodo rispetto ad altre entità finanziarie, ad altre popolazioni organizzative come Goldman Sachs, che avevano rapporti molto più forti col potere politico. Beh, Paulson veniva da Goldman Sachs. Infatti. A Goldman Sachs furono dati 10 miliardi di dollari. Infatti. Ma a Citigroup 45. 45, sì, lì hanno tagliato una mano che era molto meno vicino, molto meno simile a quella che aveva in mano lo scettro del governo politico, e hanno salvato le altre, insomma. Citigroup fu aiutata appunto con 45, AIG con 66, tra l'altro Bank of America si comprò Merrill Lynch, che era tecnicamente fallita. Ora non possiamo sapere la verità perché i personaggi sono vivi, però dobbiamo avere fiducia nella democrazia americana che conserva tutto. Io penso che tra 50 anni sapremo come sono andate veramente le cose. E tra l'altro su questo va detto che insomma Merrill Lynch fu salvata da Bank of America, ma perché il governo americano diede a Bank of America 20 miliardi, cavolo che quella che ne perdeva 69 poteva salvare Merrill Lynch. Assolutamente, quindi questa cosa di Lehman Brothers rimane un grande interrogativo nel rapporto tra politica ed economia negli Stati Uniti. Cioè, per noi qui da noi nell'Europa del Sud queste cose sono normali, no? Sai che il governo aiuta gli amici, ammazza gli avversari. In America questo è stato una cosa un po' più, diciamo, innovativa, nel senso negativo. Sì, oddio, devo dire che in Europa l'ipotesi che una banca d'affari grande come Lehman possa fallire, io non la vedo proprio. Ma per carità, volevo dire Paribas, come esempio, qui siamo stati abituati sia nelle privatizzazioni, sia nei salvataggi che si salvano gli amici, o si aiutano gli amici quando si privatizza. Negli Stati Uniti questo no, perché c'è la mano del mercato. In questo momento mercato fallito, mano politica che ha fatto le sue scelte. Sì, tra l'altro Lloyd Blankfein, che è l'amico, insomma, Goldman Sachs, l'amico di Bush, ebbe anche, quando andiamo a vedere i casi dei manager e degli stipendi che si sono dati, la cosa fa spavento. C'è un'altra cosa che emerse, perché qui non possiamo, lo dico a chi scrive, fare una puntata sulla crisi del 2008. qui stiamo ragionando di due anni, certo, due anni su Lehman Brothers, per cui so che potremmo partire dal perché, ma qui ragioniamo di due anni su Lehman Brothers. C'era un altro tema però che emerse in maniera molto forte, ed è un tema che a noi sta molto a cuore, ossia crollando Lehman Brothers si capì, professor Sapelli, che la teoria del mercato, per cui alla fin fine la banca raccoglie e guadagna quello che vuole, perché tanto sta sul mercato, e ricordo che il mitico Fald, numero uno di Lehman Brothers, aveva guadagnato qualcosa come 40 milioni, sì. 40 milioni di dollari solo l'anno precedente, dicevo, era una teoria che non stava in piedi, perché tutto il sistema, cioè qui non fu solo il fallimento di una grande banca, la quarta banca d'affari americana, sì. Si bloccarono le contrattazioni, i mercati crollarono, le banche non si prestarono più soldi finché non intervennero i vari governi, americano e poi anche europeo, a iniettare a botte di centinaia, sì, di miliardi il sistema. Prego. No, no, no, appunto, lì sono fallite due teorie fondamentali. Una è quella che lei ha così ben descritto adesso, cioè quella della... il fatto che i prezzi di mercato nel mercato finanziario funzionassero per segnalare le imperfezioni quando arrivava la crisi. Si pensava che il mercato finanziario fosse molto più efficiente di quello industriale, invece questo si è rivelato assolutamente inconcludente, non vedo. E poi è fallita l'altra cosa, che forse è stata la causa fondamentale per cui è fallito il mercato, è fallita la cosiddetta teoria dell'agenzia, per cui i manager facevano sempre gli interessi degli azionisti, se ben remunerati. E invece questo fallimento è stato, è questo che dura ancora oggi, i manager continuano a essere ben remunerati anche se hanno fatto fallire gli azionisti assieme alle loro banche, e quindi la teoria che per cui erano gli azionisti a comandare è stata completamente distrutta, ecco, perché anche qui è dovuta arrivare la mano pubblica, sì, ha dovuto rimanere a mano dello Stato, quindi un colossale ferimento di cui però non ci ha colto nessuno, non gliene frega assolutamente. Beh, noi continuiamo a parlarne, ma insomma, oltre a quello che avevano guadagnato questi manager, sì, negli anni, sì, precedenti, sì, perché insomma, sì, sì, Charles Prince, Citigroup, sì, sì, licenziati, sì, licenziati 38.000 persone, 38.000, sì, buco da aiuti per 50 miliardi, ebbene, in questo mito Charles Prince aveva guadagnato di due anni prima 44 milioni di dollari di stipendio più tutto il resto, e la stessa cosa per Merrill Lynch, perché mentre il governo americano e la Bank of America cercavano di salvarla, loro si distribuivano bonus per 4 miliardi di dollari. Poi c'era John Tyne, perché il pesce puzza dalla testa, no? Che era il numero uno di Merrill Lynch e aveva speso 1.700 dollari per il cestino della spazzatura, 1.200.000 dollari per arredare l'ufficio. Ho detto, forse ho esagerato, non so. Vedi tu, Dick Fald, Lehman Brothers, aveva guadagnato 500 milioni di dollari, 500 milioni, Sapelli. Sì, sì, adesso si era formata una nuova imponente classe agiata, una grande borghesia finanziaria che domina ancora adesso il mondo, perché adesso tutti strillano, però poi dopo quando la polvere si posa, questi sono lì e non rimane nulla. Quindi no, la cosa più devastante e che si è persa la capacità di indignarsi. Lei ancora si indigna, Barisoni, perché è un bravo ragazzo, ma però grazie la maggioranza non gliene importa assolutamente nulla, lo reputa assolutamente normale che ci siano dei personaggi simili in giro. Sì, ma quello che stavo dicendo è che oltre che aver guadagnato decine di milioni, sì, da prima, sì, la cosa che ci ha fatto più arrabbiare in questi anni è che dopo, come hanno visto i primi utili, sì, cioè li hanno salvati i cittadini americani, il deficit americano, sì, viaggia al 14%, sì, questi si sono ridistribuiti i bonus già nel, sì, 2009. Sì. È questo che fa girare, diciamo, ma, scusi, le cose. Ma mi pare normale, perché si è formato un homus economicus che è un rapace. Noi abbiamo un'antropologia ormai di tipo nichilistico, per cui diciamo che sono il frutto del business school, dell'MBA. Cioè, un tempo si selezionavano queste persone qua guardando la loro famiglia, da dove venivano, se avevano fatto bene il loro lavoro, cosa faceva il padre. Adesso no, basta che abbiano uno straccio di foglio che generalmente comprano, no? Perché le scuole di MBA sono tutti dei certificati in vendita. Tra un po' li venderanno delle bancarelle. Comunque, qui c'è un principio fondamentale, sì, che vengono fuori questi. C'è un principio fondamentale, Sapelli, che chiedono ai nostri ascoltatori di poter riavere, perché il miglior riassunto di questo principio è in un film, ne sta per uscire ovviamente anche il numero 2, chiaramente parliamo di Wall Street e di Gordon Gekko. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona. L'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Tel del Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. E invece l'ha fatta fallire questa società americana così costruita. Volete sapere i bonus che già un anno dopo si erano già distribuiti i manager? Goldman Sachs 16 miliardi messi da parte, e voglio dire, Goldman Sachs aveva ricevuto 10 miliardi di aiuti. E ancora non c'è solo Goldman Sachs, perché insomma AIG pagherà i bonus ai suoi dipendenti, ha pagato i bonus ai suoi dipendenti, la Bank of America pure, Citigroup pure, insomma c'è stato tutto una corsa a ridistribuirsi i bonus sul principio dell'avidità. Questo per quello che riguarda però i top manager, i grandi, la casta, gli dei dell'Olimpo. Per le decine di migliaia invece di dipendenti di Lehman Brothers le cose sono andate un po' diversamente. È in collegamento con noi una persona che alcuni di voi già conoscono, perché abbiamo raccontato la sua storia qualche settimana fa, perché poi si è reinventato un'attività a Londra da gelataio umilmente. E Sapelli, l'ascoltiamo anche assieme perché è una storia esemplare. Era un dipendente italiano di Lehman Brothers, l'ascoltiamo però dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms. :17 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, le dicevo, professor Sapelli, di questi 26.000 dipendenti di Lehman Brothers che hanno perso il lavoro, ce n'erano 4.000 solo a Londra, di cui 500 italiani. Uno di questi si chiamava e si chiama Carlo Del Mistro. Buonasera. Sì, buonasera a lei. Allora, abbiamo già raccontato la sua storia, che lei si è reinventato un lavoro da gelataio, adesso ha delle catene di gelateria. No? A Londra. Però vorrei capire, lei, lo sappiamo cosa ha fatto, ma gli altri suoi colleghi, intanto come avete vissuto quel giorno, ma che cosa fanno adesso, 2 anni dopo, visto che c'erano almeno 500 italiani a Londra, solo a Londra? Esatto. Beh, chiaramente il giorno del crack è stato abbastanza un evento straordinario un po' per tutti, pochi se lo aspettavano. C'era per esempio un mio collega e amico che era in luna di miele durante quel periodo e ha letto la notizia sul giornale la mattina al secondo giorno di luna di miele. Beh, meno al secondo, non la notte prima, ecco, dai. Esatto. Comunque puoi immaginare quanto sia stato lo shock, e quindi andare in ufficio a raccogliere tutte le cose dalle scrivanie, non sapendo chi avrebbe avuto ancora un lavoro il giorno dopo, perché comunque si stava già parlando di acquisizione di parte dell'azienda. Comunque a quel momento lì tutti stavano portando via quello che si poteva mandare. Penso che avessimo mezz'ora per raccogliere le nostre cose, perché comunque l'edificio era off limits per i dipendenti, per gli ex dipendenti. E comunque 2 anni dopo, almeno tutte le persone con cui sono rimasto in contatto si sono trovato un altro lavoro nel mondo delle banche, oppure sono cambiato mestiere, come per esempio me. E diciamo che però subito dopo il crack la maggior parte delle persone hanno avuto abbastanza difficoltà a trovare immediatamente un lavoro dello stesso tipo, perché chiaramente c'erano migliaia di persone che avevano perso il lavoro allo stesso tempo e le altre banche non stavano assumendo più nessuno, visto che non sapeva che quale altra banca sarebbe potuta essere la prossima vittima. Diciamo che sì. Alcuni sono andati a fare consulenza, alcuni sono presi un anno di vacanza, sono partiti per un sabbatico, e altri hanno preso magari dei lavori con degli ingenti tagli allo stipendio. E quello che era in luna di miele, che ha fatto? Si è separato? Luna di miele... Chiaramente sua moglie per fortuna ha continuato a lavorare, non lavorava nella finanza, e sembra che ci abbia messo, lui ha voluto rimanere in finanza, passati 5 mesi prima di trovare un altro impiego, perché comunque erano i mesi più bui. Quindi adesso lei, invece che vendere prodotti tossici, vende gelati sani. Esatto. Perché almeno qualcosa ci abbiamo guadagnato. Professor Sapelli, insomma, Carlo Del Ministro è un personaggio, insomma, che ha avuto la forza anche di non lasciare Londra, aprire una catena di gelati, insomma, ed è encomiabile, chissà perché poi lo fanno solo da Londra e non in Italia, però possiamo dire, Sapelli, che su questo, voglio dire, le elezioni, arriviamo poi al futuro, andiamo a concludere, le elezioni parlate oggi, Bruxelles ha detto che sarà più attenta, norme più stringenti sulle vendite allo scoperto. Però mi sembra che a Wall Street non è che sia cambiato moltissimo. No, non è cambiato niente. Perché l'unica cosa seria l'aveva detto il vecchio Volcker, e l'unica cosa seria che dovevano fare non era iperregolare la finanza, ma breakdown, cioè dividere le banche, sì, certo, d'affari dalle banche di credito ordinario. Questo non l'hanno fatto perché questi signori, di cui adesso sono felice che si vendano gelati piuttosto che asset tossici, e continuano a fare il loro lavoro e soprattutto hanno in mano i governi mondiali. Questo è l'elemento di fondo, e sono, salvo in alcuni paesi che so dove c'è una più grande tradizione di civil servant eccetera, gli Stati Uniti in questi 20 anni hanno perso gran parte della loro struttura di governance, è quella che faceva il più grande paese eticamente del mondo. L'Inghilterra ancora fa qualcosa, ma mi pare che non si è fatto ciò che si doveva fare, tornare a prima del Glass-Steagall e delle famigerate leggi a Amato che noi abbiamo emanato in Italia. Quindi, se non si sì, fa ecco, questo, il riferimento di Giulio Sapelli è un riferimento importante. Sotto Clinton venne approvato una legge, un act, in cui veniva concesso alle banche d'affari, cioè non c'era più la separazione tra tu che lavori e investi, speculi su strumenti finanziari anche ad alto rischio, e tu che fai banca normalmente, cioè fai i mutui, scusi, i prestiti. Scusi, prego. Se lo interrompo, dottor Barisoni, fai tutto questo con i miei depositi. Con i miei depositi, certo. È il problema, io metto i miei soldi nella tua banca e tu puoi fare attività di leva con prodotti tossici, certo. Tu no, io generalmente le persone semplici vanno in banca con un senso di sicurezza, no? Certo. E invece questi hanno preso i soldi dalle tasche dei cittadini e li hanno usati per spericolate azioni e per aumentare i loro bonus. Questo possono continuare a farlo. Grazie alla simmetria informativa che c'è tra loro e la signora Gina, che se certo, uno va in banca non è che questi sappiano che la persona normale che legga degli infernali contratti scritti in cifre piccolissime, questi possono continuare a farlo, quindi insomma non è cambiato assolutamente niente, anzi devo dire è cresciuta questa sorta di menefreghismo sociale. Questi hanno provocato una catastrofe immane, soprattutto per un comportamento immorale, e la gente continua ancora a premiarli come i migliori manager dell'anno. Allora quindi forse è meglio ritirarsi in una caverna. Allora, volete sapere al 349-238-6666 cosa fa Richard Fold, che non sta male perché ha incassato 500 milioni di dollari negli anni in cui era lì? Beh, ha fondato Matrix Advisors, con società di consulenza finanziaria, e con lui anche alcuni ex dipendenti Lehman Brothers. Lui ha detto di aver creato Matrix Advisor per aiutare aziende a finanziarsi per espandere i loro affari, che è come chiedere a Jack lo squartatore di accompagnare le donne la sera o all'uscita della metropolitana, no? Secondo me, però, se mi passa l'esempio, fa altri dipendenti lavorano per Nomura, che ha rilevato le attività europee di Lehman Brothers, e ha invece le attività americane le ha rilevate la Barclays. 2 anni passati per nulla, forse, purtroppo. E poi c'è Alan Greenspan, che fu per Sapelli per 10 anni, insomma 12 anni, alla guida della Federal Reserve, vide scoppiare, crescere, montare sta bolla speculativa, non fece granché, eppure continua a parlare. Adesso cosa dice? Il piano di stimolo funziona meno del previsto. E continua, diciamo, a gufare, e anche questa volta Greenspan si becca il nostro gufo. Grazie. grazie, grazie a Giulio Sapelli, grazie, in bocca al lupo, perché apprezziamo il coraggio e anche il fatto che si sia riciclato in un'attività più sana a Carlo Del Mistro. Noi adesso dobbiamo andare con il traffico e poi la borsa. So che molti di voi, vedo molti messaggi pieni di rabbia, purtroppo esistono anche le oligarchie, non solo nella tanto democratica Russia, ma anche nella tanto democratica Wall Street. Questi hanno pagato poco, pochissimo, vedremo poi cosa succederà. Se si va a vedere i bonus anche in Europa, anche in Italia, dei top manager, ragazzi, siamo sempre al rapporto di 1 a 370 contro 1 a 74, come era negli anni 70. Evidentemente sono manager più bravi. Traffico. Basta, non possiamo continuare con Lehman Brothers, lo so, è deprimente vedere che dopo due anni i manager non sono stati puniti, che Fald fa il consulente, che si sono ridistribuiti i bonus, che non si sono separate le banche d'affari dalle banche, diciamo, retail, che nulla è cambiato, perché il potere di queste persone, della lobby di Wall Street, è fortissima, così come anche da noi in Europa, non scherzano, cioè i grandi numeri uno delle banche, per carità. Detto ciò, noi dobbiamo raccontare la storia così com'è, non quella che vorremmo che fosse. Lo dico anche a chi scrive, ma a mio avviso ha abbastanza ragione anche Giulio Sapelli nel dire che l'indignazione, in questo caso parlavamo dell'America, sì, c'è qualche manifestazione, ma poi insomma nemmeno Barack Obama ha tentato di aggredire il fenomeno, anche perché si è preso in casa uno come Timothy Geithner, che viene proprio da quel mondo lì e quando finirà il mandato in quel mondo lì deve tornare, quindi tiene famiglia anche il segretario al tesoro americano. La borsa. Allora, per quello che riguarda la borsa, è meno 0,6% Milano, mezzo punto Parigi, meno 0,20% Francoforte, meno 0,20% Londra, l'America più 0,25%, non tantissimi spunti nemmeno oggi, più le valute e l'oro nuovo record, il Giappone che è dovuto intervenire sullo yen per... che era troppo forte, era vicino a quota 80 sul dollaro, adesso è 85, l'euro a quota 1,30. Bene, Luxottica più 1,86, Impregilo più 1,5, Popolare di Milano più 1%, Fiat più 0,6%. Ciao Condina, buonasera. Buonasera a voi. Radio Corio, Sole 24 Ore, Luxottica. Sì, Luxottica è il titolo migliore di Piazza Affari, guadagna oltre l'1% in una giornata, come hai detto tu, comunque negativa, un titolo che è stato spinto da un report di Deutsche Bank. Al di là poi dei contenuti del report, gli analisti sottolineano come, guardando tutto il comparto del lusso, il titolo di Luxottica negli ultimi 12 mesi in borsa abbia sottoperformato del 36% rispetto ai competitori europei. Dunque, partendo da questo numero, da questo dato, gli operatori hanno dato il via libera agli acquisti già dalla prima mattina su Luxottica. Ancora un po' di cali nel settore bancario dopo Basilea 3, insomma, comunque qualche debolezza, UbiBank meno 0,90, nulla di grande. Ansaldo STS meno 2,4%, A2A meno 2%, ecco, qui c'è qualche novità, perché tutte le utilities europee, Terna perde l'1,6, ma non è Snam, perde l'1,1, Enil l'1%, non vedo l'Enel, ma adesso la trovo, eccola qua, meno 0,6%. Che è successo? Sì, allora diciamo, a livello aggregato le utility europee, anche quelle italiane, sono state penalizzate da un report di Goldman Sachs che ha bocciato l'intero settore, dichiarando buona parte di questi titoli, in particolare quelli che hanno subito le perdite in borsa, come sopravvalutate. Nel caso specifico di A2A ci sono parecchi fattori che influiscono, al di là poi del report negativo di Goldman Sachs che ha messo l'utility lombarda tra i titoli da vendere immediatamente. Ricordiamo che ieri c'è stato un vertice tra i soci di Eddie Power, tra cui c'è anche A2A, che hanno dichiarato l'intenzione di procedere a un break up, cioè uno spaccamento della società in relazione anche a quello che è il riassetto di Edison, quindi continua l'incertezza attorno a Foro Buonaparte, in cui A2A detiene una partecipazione da 4 anni che dovrebbe essere industriale ma è soltanto finanziaria. In più c'è anche l'attesa per il Consiglio di Sorveglianza di A2A del prossimo 22 settembre, in cui si dovrebbe comunque prendere una decisione sulle scelte strategiche di una società che continua a essere penalizzata in borsa comunque. Ancora, torniamo a parlare della Roma Calcio, fermo restando che poi il peggior titolo appunto l'abbiamo dato è Ansaldo, ma anche Telecom perde l'1,3 come Autogrill, Steamac Electronics meno 1,2, CIR meno 1,1 come Tenaris e Pirelli, Buzzi Unicem perde l'1%, Atlante all'1%, la Roma Calcio, perché? Perché anche oggi ha tenuto banco. Sì, la Roma Calcio guadagna ancora parecchio, l'indiscrezione di stampa di oggi del Sole. Davano, sì, proprio del Sole 24 Ore davano degli interessi, diciamo, di soggetti pesanti, consistenti, come il fondo Mubadala, il russo Fedun, per rilevare la maggioranza della Roma, quindi non si tratta, diciamo, di soggetti che hanno manifestato un semplice interesse, ma che hanno la potenza finanziaria eventualmente di rilevare la Roma. Quindi si avvicina a questo appuntamento e ovviamente, siccome poi l'operazione dovrà venire a premio su quelli che sono i titoli di borsa, gli operatori acquistano la società di più oggi, perché poi la Roma, ricordiamo che da fine agosto ha guadagnato il 40%, di più oggi c'è anche l'andamento delle altre società di calcio, sono state trascinate al rialzo dall'entusiasmo sul settore calcistico, prima fra tutte la Lazio che ha guadagnato l'11%. Sì, miglior titolo appunto della giornata la Lazio, e appunto su questo tra l'altro anche la Juventus, tu ricordavi, poi Caleffi più 8,20, AF più 7,70%, peggior titolo Lesopov meno 5,91, Lidata meno 5,20, Gabetti meno 5,40. Grazie a Ceo Condi, la Radio Corri sulle 24 ore. Va ancora in onda il nostro Toto Ministro, lo mandiamo in onda di solito alle 18, ma potete votare anche prima. Chi suggerite come ministro dello sviluppo economico? Nome realistico, quindi non l'opposizione, non vostri amici, non nomi così per scherzo, e poi vi daremo, quando arriverà il nome del ministro dello sviluppo economico, vi daremo poi il nostro responso, la nostra classifica. 349-238-6666, il GR. Di 18:09, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo esserci occupati dell'oro, delle valute, dei 2 anni trascorsi, purtroppo, al giudizio dei nostri ospiti, inutilmente, dopo il crack di Lehman Brothers, l'invito del professor Sapelli a tornarsene nella caverna, a me ricordava più Platone che una caverna vera e propria. Comunque vedo che molti dicono, insomma, noi cosa possiamo fare? E purtroppo, quando hai a che fare con lobby così potenti da influenzare il governo più potente del pianeta come quello americano, poco, a meno che non vi sia un'indignazione collettiva dell'opinione pubblica, ma come ricordava Sapelli è durata poco ed è stata anche molto molto breve negli Stati Uniti. Per quello che riguarda invece i prossimi temi, parliamo della CISL e poi parleremo invece di quella che è l'apertura oggi del Sole 24 Ore, ossia le prime linee guida sul federalismo fiscale, ma non solo, i costi standard della sanità, l'imposizione e anche quanto, insomma, può essere la banda di oscillazione sulle addizionali IRPEF, tutto questo oggi su Sole 24 Ore. Prima però vorrei ascoltare l'intervista che ha fatto la nostra Eleonora Micheli, o meglio la collega dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, Eleonora Micheli, al numero uno di CISL, perché oggi hanno inaugurato la prima CISL Win City, enorme sala da gioco replicata in altre 5 città, a Roma il prossimo 30 settembre, poi Torino, Brescia, Verona e Pescara, investimento di 20 milioni di euro in 3 anni. E CISL, oltre che avere in concessione dei monopoli di Stato la gestione dei giochi d'azzardo, è anche il sesto gruppo al mondo nel gioco d'azzardo, 10 miliardi di euro, e il numero uno, Emilio Perrone, ha detto, insomma, non c'è un progetto di quotarsi in borsa, ma vedremo. E poi ha raccontato anche in cosa consiste la nuova Win City, la nuova città del gioco. È il primo passo di una nuova strategia CISL, una strategia retail che vuole vedere l'azienda più vicina al consumatore finale attraverso l'apertura di punti vendita dedicati all'entertainment, quindi al divertimento, Il Win City si chiama Eat, Drink and Play, perché vogliamo offrire un posto dove poter bere, mangiare, stare insieme con gli amici, ma naturalmente anche giocare insieme. Milano è la prima città, apriremo a Roma fra qualche giorno e apriremo comunque un totale di 6 Win City entro la fine di quest'anno. Ne abbiamo poi altri in programma per il primo quarto del 2011, quindi l'inizio del prossimo anno. Apriremo nelle principali città italiane, valuteremo poi naturalmente i risultati e in base ai risultati delle prime 8-10 sale decideremo per il futuro. Oltre 20 milioni di investimenti. Sì, in realtà gli investimenti sono molto più elevati, perché oltre agli investimenti per aprire le sale e per il personale ci sono poi gli investimenti per le licenze dei giochi, quindi l'investimento totale è un investimento di circa 100 milioni di euro. Nel 2009 Sisal ha raccolto 9,4 miliardi di euro, in crescita di oltre il 40%, non risentite della crisi, quali sono le vostre previsioni per il 2010? Il settore del gioco è sicuramente un settore che sta andando meglio di altri in un momento di crisi. Sisal in particolare ha varato ed eseguito una nuova strategia che devo dire è stata molto apprezzata dai consumatori, ci ha permesso di continuare a crescere. Lo abbiamo fatto nel 2009, stiamo crescendo, siamo in sviluppo nel 2010, prevediamo di chiudere anche nel 2010 un anno positivo in crescita a doppia cifra rispetto all'anno precedente. Avete in corso un aumento di capitale, come dedicherete le vostre risorse? Ma sono risorse che sono dedicate allo sviluppo dell'attuale piano strategico, quindi lo sviluppo del Super Enalotto, quello naturalmente delle altre attività retail. Avete manifestato anche interesse per SNAI, ci sono novità? Non ci sono novità, SNAI è un'azienda molto importante, storica, che noi rispettiamo molto, siamo interessati a SNAI, ma al momento non ho delle novità particolari da riportare. Siete interessati alla totalità o eventualmente a una quota di minoranza? Questa è una cosa su cui non posso commentare. Sisal appartiene a 3 fondi di private equity, state pensando a un'eventuale quotazione? In questo momento non c'è un progetto di quotazione definito, però stiamo sicuramente lavorando per sviluppare l'azienda e anche per comunque preparare l'azienda dal punto di vista manageriale dell'organizzazione per un futuro di sviluppo. Poi se sarà la borsa o un'altra strada lo decideremo, anche perché in questo momento i mercati danno pochissima visibilità e quindi non è il momento più adatto per prendere questo tipo di decisioni. Così appunto il numero uno della Sisal, Emilio Petrone, al microfono della nostra o della collega di Radio Corriere sulle 24 ore, Eleonora Micheli. Ricordo che proprio i dati diffusi ieri dall'erario, dall'Agenzia delle Entrate, hanno visto insomma 6 miliardi e 300 milioni solo nei primi 6 mesi del 2010 entrare nelle casse dello Stato dai giochi, Super Enalotto, schedine, quello che volete, insomma 6 miliardi e 3. Di cui appunto quasi un miliardo del Super Enalotto, ma il gettito più forte viene dalle new slot, immagino le new slot machine, 2 miliardi e mezzo. Nonostante l'aliquota sia bassa, 12%. E visto che siamo in tema di giochi, lanciamo anche oggi il nostro gioco, ossia in attesa di conoscere il nome più volte promesso del Ministro dello Sviluppo Economico, che noi riteniamo importante, fondamentale in questo periodo in cui bisogna passare dalla tenuta sui conti al rilancio dell'economia, mettiamola così, anche il Presidente della Consob è importante, forse arriverà quello venerdì, continua il nostro Toto Ministro. Bene, abbiamo una classifica che non vi posso insomma raccontare, ma ci sono tutti i nomi anche papabili. Invito tutti però a mandare messaggio al 349-238-6666, messaggi seri. È inutile che mi scriviate Topo Gigio o Umberto Smaila o ho visto Lino Banfi. Non è che non siano persone serie, ci mancherebbe. Però insomma nomi realistici e quindi nemmeno l'opposizione, va bene, nomi possibili. Poi vedremo di confrontare la nostra classifica quando arriverà il nome del nuovo ministro dello sviluppo economico. Sono 134 giorni che manca, 76 giorni invece da cui manca il presidente della Consob. Vedremo chi ha ricevuto più voti nella classifica che si amplia di giorno in giorno. Adesso il traffico e poi parliamo di federalismo, le prime cifre, i primi calcoli del governo li ha anticipati oggi sulle 24 ore, la possibilità per le regioni di variare l'addizionale IRPEF fino a un massimo del 3% dall'attuale 0,9% a seconda di cosa intendono fare, di quante risorse intendono reperire fiscalmente, e anche i costi standard. Il buco delle regioni infatti è un buco per il 90% attribuibile alla sanità. Nel frattempo ci sono anche novità su quanto deve la sanità italiana alle imprese: 50 miliardi, ve l'anticipo subito, di euro, 4 punti di PIL di mancati pagamenti, pagamenti in ritardo. Ma chi ha fatto la ricerca, ossia il gruppo Astrid, Giorgio Macciotta, ha anche fatto notare che se venisse ripagato questo debito alle imprese, le ricadute sul rating dell'Italia, sul debito italiano, sarebbero terribili, devastanti, perché 50 miliardi vorrebbe dire fa schizzare il deficit e anche il debito. Un paese che ha un debito più alto del PIL non se lo può permettere tutto in una volta. Il traffico. Ultima parte di Focus Economia, 349-238-6666 per i vostri sms. Va bene votare anche manager, amministratori delegati, economisti. Questo sì, c'è tutto quello che potrebbe essere papabile in un paese normale in cui il governo ha bisogno di un ministro dello sviluppo economico. Dicevamo il federalismo fiscale, le linee guida anticipate oggi dal Sole 24 Ore. Sì, perché mentre il ministro Calderoli, ministro della semplificazione, ha detto, ma insomma posso anche ipotizzare che il ministero dell'interno vada a Palermo, Reggio Calabria, quello dell'ambiente si trasferisca a Napoli, quello dell'economia a Milano, quello dello sviluppo a Torino, che è una proposta avanzata a titolo personale, oggi il Sole 24 Ore ha delle anticipazioni importanti, i numeri sul federalismo fiscale. Eugenio Bruno è l'autore dell'articolo, collega del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. E buonasera anche al professor Massimo Bordignon, che insegna Scienze delle Finanze alla Cattolica di Milano, editorialista proprio sul tema del federalismo per il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a lei. Allora Bruno, abbiamo poco tempo, Eugenio abbiamo poco tempo, ma diamo le linee guida. Voi avete scoperto, individuato, cosa potrebbe cambiare per le regioni in termini di tetto sull'IRP, l'addizionale IRPEF, quanto potrebbe oscillare rispetto adesso, e anche quali regioni dovrebbero essere utilizzate per i costi standard nella sanità, la radiografia, la chemioterapia, la sacca di plasma. Non è possibile che costino 30-40 volte al sud rispetto che al nord. Prego Eugenio. Allora, diciamo che il puzzle del governo si sta per comporre. La prossima settimana dovrebbero arrivare in Consiglio dei Ministri due decreti attuativi fondamentali, uno sul fisco delle regioni e l'altro su come calcolare i costi standard nelle funzioni fondamentali delle regioni, a cominciare dalla sanità. Cioè, le cose principali che emergono è che i governatori avranno un margine di manovra maggiore rispetto a oggi, sia sull'addizionale IRPEF, perché mentre oggi la possono variare dallo 0,9 all'1,4, un domani potranno arrivare anche al 3%, da un lato, e dall'altro potranno eventualmente decidere di eliminare l'IRAP, di diminuirla o di eliminarla per favorire, fare una politica di sviluppo delle attività produttive. Questo sul fronte del fisco. Sul fronte dei costi, la novità è che finora si è sempre parlato di quattro regioni virtuose, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna. In realtà nella bozza di decreto che noi abbiamo consultato emergono nomi nuovi. Senso, il criterio sarebbe quello di usare come benchmark, cioè come valore modello, le regioni che non hanno disavanzi sanitari in atto, cioè, o meglio, due anni prima rispetto a quando partiranno, sì, i costi standard. Gli ultimi dati sono quelli del 2009 e dai dati del 2009 emerge che le regioni benchmark sarebbero Marche, Umbria, Lombardia e Toscana. Cioè si va a vedere quanto costano questi servizi sanitari, immaginando che il plasma debba costare, la sacca di plasma, lo stesso in tutto il paese, e quindi voglio dire, esatto, non quattro volte in più in alcune regioni del sud o alcune ASL soprattutto. Stessa cosa per le altre strutture sanitarie, servizi sanitari. E si prenderebbero come riferimento quelle più virtuose, cioè Toscana, Lombardia, Umbria e Marche. Devo dire che il peggioramento dei conti 2008-2009 si è avuto in Abruzzo, ma lì ci sono stati insomma, sì, anche gli effetti del terremoto, ma in Veneto è peggiorato da 99.000 euro il buco a 150.000, in Liguria è peggiorato, poi è peggiorato anche nella provincia di Bolzano da 210.000 a 262.000 euro il buco, in Sicilia è peggiorato perché è passato da scusatemi, è migliorato perché è passato da 350.000 a 180.000, è peggiorato in Piemonte 387.000, e poi abbiamo le due regioni su tutte, cioè la Campania che da sola fa 700.000 e il Lazio che pure è migliorato di 200.000 euro, ma ancora 1 miliardo e 400 milioni di buco. Professor Bordignon, la convincono? Cioè dare la possibilità alle regioni di avere una banda di oscillazione, diciamo, sull'addizionale IRPEF, che poi o annullarla oppure portarla fino al 3%, per cui dall'odierno 0,9% che al massimo può essere elevato all'1,4% in più come tasse. Sì, cioè quello che sta succedendo è una modifica al margine di quello che già c'è. Già le regioni avevano a disposizione un addizionale sull'IRPEF che era di misura limitata, avevano la possibilità di spostare, aumentare o ridurre l'IRAP di circa un punto percentuale, e quello che si fa, si amplia gli spazi di manovra delle regioni su questi tributi, quindi non si cambia la struttura fondamentale di quello che è il sistema finanziario fiscale delle regioni, si danno soltanto margini di manovra in più. Naturalmente bisogna vedere poi il decreto, bisogna vedere il testo, cioè ancora questo è un testo, non è stato nemmeno approvato dal Consiglio dei Ministri, potrà essere rivisto o discusso in commissione bicamerale, eccetera, eccetera. Quindi stiamo parlando di anticipazioni, dovremo guardare in dettaglio per capire bene cosa c'è. Cioè, naturalmente una cosa è per esempio poter offrire un addizionale uguale per tutti gli scaglioni, altro è la possibilità anche di intervenire su definizione dell'imposta. Cioè, io per esempio sarei molto favorevole a un addizionale anche molto ampio sull'IRPEF, sarei meno convinto se si potesse intervenire in aspetti proprio specifici al meccanismo del tributo, perché questo rischierebbe di renderlo non più, cioè che cambiano la base, sì, imponibile, per capirsi, ecco, non più confrontabile tra regioni, si perderebbe un po' la progressività e quant'altro. Per concludere, Bordignone, il fatto che invece sulla sanità non si usino anche le regioni che due anni prima sono state virtuose, e appunto a sorpresa, lo dico, vengono fuori le Marche, l'Umbria, la Toscana e la Lombardia, per cui non necessariamente al nord, questo la convince, c'è un pacchetto di regioni? Ma non solo mi convince, allora forse bisognerebbe dirlo questo ai suoi ascoltatori. Se lei guarda gli ultimi 20 anni e si domanda, ma mi scusi, ma quali sono le regioni che non hanno mai sfondato il bilancio a livello sanitario? La risposta sono la Toscana e l'Umbria, quindi è del tutto ovvio che queste due regioni ci siano all'interno, insieme all'altra, perché esattamente sono le regioni più virtuose da sempre sulla sanità. La Lombardia ha fatto meglio negli ultimi anni, non ha sfondato, ma qualche anno fa, all'inizio del 2000, ha dovuto intervenire anche abbastanza pesantemente aumentando l'addizionale perché aveva sfondato il bilancio. Quindi l'idea di avere una moving average, cioè che non si, sì, prende come riferimento per sempre la Lombardia, ma banalmente quelli che hanno fatto meglio negli ultimi anni, mi sembra una cosa del tutto ragionevole. Sì, anche perché la Lombardia appunto è inattivo, ma molto di più sono le Marche, l'Umbria e la Toscana. Cioè, mi sembra del tutto naturale, prego, non c'è ragione per, sì, cui uno dovrebbe credere che la Lombardia, di per sé, solo perché la Lombardia sta a nord, fa necessariamente meglio della No, ma infatti qui volevo arrivare, il Veneto c'ha un buco, non ce l'ha enorme come la Sicilia, ma ce l'ha, la Liguria ce l'ha grosso, insomma il Piemonte ce l'ha. Attenzione ai facili luoghi comuni, lo dico senza nessun intento politico, perché insomma, al di là di chi amministra queste regioni, poi andiamo a vedere le cifre, le regioni virtuose sono quelle del centro Italia più la Lombardia. Grazie a Eugenio Bruno e grazie anche a Massimo Bordignon. Le regioni rosse, Giuseppe Cruciani, oltre che alla Lombardia, da sempre, insomma, negli ultimi anni in mano al Popolo della Libertà, con buona pace della Lega, e lo dico senza nessuna polemica politica, ma insomma la sanità nelle regioni anche della Lega non è che sia sempre meglio del centro Italia, che tu conosci molto bene. Giuseppe, di che ti occupi, se vuoi commentare questo, ma di che ti occupi oggi? Ma continueremo a occuparci di questa vicenda della campagna acquisti dei parlamentari, perché come già dicevamo ieri sembra che da 20 già siano passati a 7, e avremo come ospite il protagonista di questa campagna acquisti, cioè dire il repubblicano Nucar. Quindi più facile Ibrahimovic che il Parlamento. Così sembra. Poi i risultati, poi su quello potremo discutere. Grazie Giuseppe Cruciani. Adesso Focus Economia termina qui. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Buona serata da Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.